muovono appena nella brezza della sera, stranamente uccise dalla polvere che ricopre ogni cosa in un mondo che non riconosco più. Tutto sembra diverso da come era ieri. Sembra sempre uguale a ieri.